Inizia un po' prima la rubrica in mostra, già ho detto il perché, sono le 7.56 di questo giovedì, giornata di porta, il 6 aprile, inizia quindi, così con qualche minuto di anticipo, la rubrica che ci porta a Treviso, città d'arte, al Museo Luigi Bailo, di cui parleremo come sede espositiva. Sarà fino al 30 luglio 2023, attualmente la mostra più importante per quanto riguarda la cultura e non solo in Italia, a livello internazionale, con i capolavori di Arturo Martini, aggiungerei il grande Arturo Martini. Avrà la colonna sonora di uno scultore al clarinetto, al contralto, al clarinetto basso contemporaneo, cioè Don Byron. Sì, le note di Don Byron sono veramente quanto mai eterogenee come materiche, è per questo che l'ho scelto come artista di accompagnamento. Allo stesso modo anche molto moderne, eh? Arturo Martini, senza dimenticare lo sguardo alla classicità, ovviamente, con cui avremo modo di approfondimento nel dialogo con il co-curatore Fabrizio Malachin. E dopo il grande successo che dà una continuità, la mostra sempre a Treviso, Canova Gloria Trevigiana, vi parlavo anche di una sorta di percorso e un proseguire sulla strada di indagine nel campo ovviamente di scultura. La mostra aperta da pochissimo, dal primo aprile, è la più grande monografia dedicata a questo artista veneto di nascita, ma come ho già detto più volte, di grande respiro internazionale. Nasce a Treviso nel 1889, una famiglia non proprio abbiente, anzi con diversi disagi, è il terzo dei quattro figli di Antonio, un cuoco, e Maria Della Valle, una cameriera originaria di Brisighella. Ma queste sono le note biografiche che nell'immediato ho voluto dare. Quello che vediamo in un inizio è l'espulsione dalla scuola nel 1901, quindi già a 12 anni non era esattamente quel talento accademico, anzi mi ricorda qualcuno a causa di ripetute bocciature, e diventa operaio apprendista presso un'oreficeria a Treviso e subito dopo frequenta scuole professionali come per il lavoro di ceramista, collabora con delle fornaci dove apprende, anche se in maniera così non certo accademica, la pratica artigianale del modellare, ed è affascinato ovviamente, certo, da questa tecnica, e inizia a frequentare uno studio a Treviso, lo studio dello scultore Antonio Carlini, e contemporaneamente inizia poi a riprendere l'aspetto accademico con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Riesce ad ideare una nuova tecnica incisoria di tipo calcografico che lui stesso denomina cheromografia, di cui parleremo insomma a breve, perché è interessante anche questa nuova tecnica da Arturo Martini ideata. Intanto andiamo, per quanto riguarda la nostra conversazione, con il co-curatore Fabrizio Malachin, che ci parla proprio di questo aspetto di continuità dalla città trevigiana per quanto riguarda il progetto legato alla scultura. Una delle tremme della scultura del Novecento italiano, i capolavori, siamo a Treviso e abbiamo la possibilità di dare una continuità anche con dei percorsi precedenti, e ce ne parlerà il co-curatore dell'esposizione Fabrizio Malachin, qua al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Iniziamo il nostro viaggio allora con un protagonista importante come Martini. Come viene presentato al Museo Luigi Bailo di Treviso? Beh, innanzitutto aveva ragione nel dire che il nostro è un percorso che parte da lontano. Abbiamo iniziato un paio d'anni fa con una mostra importante dedicata ad Antonio Canova nell'anno del centenario. Abbiamo poi proseguito con un'altra mostra dedicata a un artista di dimensione, se vogliamo, regionale, locale, che è Antonio Carlini, ma importante perché è stato uno dei maestri, dei primi maestri di Arturo Martini, E poi concludiamo appunto questo percorso nella storia della scultura veneta, ma non è solo veneta, è una scultura mondiale perché i protagonisti sono tali. Appunto concludiamo con Arturo Martini. È un ritorno a casa perché Bairo possediamo già 150 opere dello scultore, nativo, Treviso, formatosi a Treviso, con delle amicizie importanti a Treviso, ma soprattutto qui a Treviso c'è un'altra caratteristica che forse il pubblico conosce un po' meno, che questo processo di riscoperta e di valorizzazione attraverso grandi eventi che hanno portato con sé anche una musealizzazione dell'artista qui come da nessun'altra parte, appunto 150 opere, alle quali si sommano ovviamente i prestiti che arrivano da molte gallerie pubbliche e private e da collezioni anche private, nazionali e internazionali, oltre 120 capolavori, quindi arriviamo a un totale di circa 270 opere, veramente una cosa che non si vedeva da almeno dal 1967, da quella grande mostra che organizzò Giuseppe Mazzotti con l'allestimento del grande Carlo Scarpa. Dopo l'assolo di Bill Frisell in questo disco per Blue Note Record, Romance with the Unseen, sentiamo il rientro di Don Byron al clarinetto basso. Anche nella serie di esposizioni a Treviso, sempre alla Bailo, la sede espositiva di cui a breve parleremo, troviamo già dal Canova, poi arrivando a uno dei maestri di Arturo Martini, Antonio Carlini, che è stato protagonista in questi percorsi, fino ad arrivare alla prima metà del Novecento e oltre con Arturo Martini. Lui stesso dichiara: facevo le incisioni sulla creta, la cucinavo, le davo cavo poi una mano di gomma lacca e la stampavo col manico dell'ombrello, e per non rompere la carta le davo un po' di cera sul rovescio, così riuscivo a modellare e scivolare meglio su questa piattaforma. Del resto, quello che vi ho portato in precedenza, la cheramografia, è una tecnica di stampa artistica di tipo calcografico, la cui matrice è una sfoglia di argilla incisa con strumenti di fortuna. È una tecnica poi perfezionata, a cui darà il termine, che appunto è cheramografia, di Arturo Martini, deriva dai termini terracotta, cheramos e ovviamente grafia, scrivere. Queste due parole messe assieme danno l'etimo di questa tecnica, relativa a un percorso artistico ideato da Martini, dove già dai primi del Novecento i mezzi di fortuna messi in comparazione e soprattutto in uso per portare l'arte su queste strutture sono stati i protagonisti, ed è una realtà veramente molto originale e particolare. Con il manico di un ombrello riusciva a dare una forma e allo stesso tempo una motilità a queste immagini. Ma un artista che ha portato anche opere di dimensioni non indifferenti, che ci sarà all'interno di questa sede museale a Treviso, e appunto allora ne parliamo, perché è una sede che io ebbi modo di visitare, non è esattamente estesissima ma è quanto mai affascinante, e quindi il percorso va strutturato in un determinato modo. Purtroppo gli spazi sono quelli di un ex convento. Il nostro museo è ospitato all'interno di un ambiente che è infelice, se vogliamo, per le grandi sculture di Martini, ma ci ha dato comunque la possibilità di organizzare una mostra in maniera innovativa. Quindi non sarà una mostra con un filo cronologico rigoroso. Siamo stati costretti appunto a collocare le opere dove lo spazio fisico ce lo consentiva, e quindi abbiamo preferito al profilo e al tema cronologico quello dell'esposizione per temi. Quindi abbiamo per esempio i Tobioli, il Tobiolo, e abbiamo organizzato tutta una mostra che mette a confronto primo Tobiolo con il grande in bronzo e poi con uno più tardo, e questo l'abbiamo fatto con le Ofelie, l'abbiamo fatto con la Leda, il Cigno e via dicendo, con il Figlio al Prodigo per esempio. Quindi il grande bronzo che viene da Acquiterme è stato messo accanto alla prima versione giovanile del 1913 in formato bidimensionale, e poi accostato a quello più tardo che è quasi minimalista e quindi astratto. Quindi è una visione che ci consente di apprezzare anche l'evoluzione del discorso plastico che ha fatto Martini, e tutto questo percorso ha comunque un ritmo incalzante, quindi il visitatore non vedrà mai calare la tensione e scoprirà soprattutto che Martini non è stato grande e innovativo solo nella famosa stagione del canto, quindi delle grandi terrecotte, ma lo è stato in tutto l'arco della sua vita. Quindi questo sarà uno dei punti forti della rassegna, oltre al fatto che uno degli inviti che io faccio e farò anche il giorno dell'inaugurazione al nostro pubblico è quello di vedere questa mostra con gli occhi di un bambino. La prima scultura che mettiamo in esposizione è proprio il cieco. Noi siamo un po' quel cieco che deve farsi accompagnare dal bambino, che rappresenta proprio lo scultore, che vede il futuro, guarda avanti con una visione che il cieco ancora non comprende. E dobbiamo essere questo, la famosa canzone che recitava bambini, quando i bambini fanno oh, quel famoso, noi dovremmo essere così, noi dovremmo entrare in questa mostra e farci stupire e meravigliare come avrebbe voluto lui. eccolo qua al tenore, il grande Don Byron, in attività ovviamente, ora nella ricerca probabilmente più legata a un modern jazz veramente strutturato, anche se vogliamo a volte ostico, ciò non toglie il grande talento, Quindi qui lo stiamo ascoltando nel progetto, nel disco Do The Boomerang, anche questo per Blue Note Record. In precedenza un lavoro per 6 artisti, You Are Number 6, in effetti il titolo è abbastanza esplicito. In questo lavoro invece Do The Boomerang, dove c'è veramente un ritorno al groove. Ricordo che Don Byron si è confrontato anche con l'hip hop, con la blaxploitation. Il Tobiolo, questa figura è Tobia il giovane, c'era San Tobia il vecchio e Tobia il giovane, il Tobiolo. Arrivati sul fiume Tigri, Tobiolo vuole fare il bagno. Un pesce però guizzò dall'acqua e cercò di mordergli, mangiargli un piede. Incitato da Raffaele, Tobiolo riuscì ad afferrare il pesce, lo gettò sulla sponda, lo uccise, gli tolse il cuore, il fegato e il fiele, che sarebbero stati, a detta dell'angelo, rimedi contro demoni e malattie oculari. Il tema di Tobiolo e l'angelo è anche in arte figurativa, in questo caso ovviamente sto parlando del Verrocchio, è un tema a cui è stata dedicata una tela del Verrocchio molto bella, se volete ricercarla, è veramente che dà un'idea del movimento e nello stesso tempo cromatico di insieme molto molto suggestivo. Beh, stiamo parlando del Verrocchio, Bel salto indietro, è 1475, si dice, in collaborazione quest'opera con un certo Leonardo da Vinci. Hey! Put on your high heel shoes. Boomerang, Don Byron in questa colonna sonora con un salto nel blues rock. In questo disco alla tromba troviamo anche un featuring che è quello di Ralph Alessi, che abbiamo conosciuto in concerto al Torrione. Di questo poi parliamo anche domani, dalle 11.30 alle 12.30 con il Jazz Live. Ma noi siamo in conclusione con questa nostra gita a Treviso, ricordando che l'esposizione sarà fino al 30 luglio 2023, ovviamente, al Museo Luigi Bailo Arturo Martini, i capolavori. Allora, quello che ancora non abbiamo così analizzato è un aspetto che, certo, lo sguardo materico, l'originalità nei percorsi di costruzione artistica, la biografia, la particolarità di questa tecnica che prevedeva un uso di oggetti nell'immediato adoperati da Martini, la cheramografia. In conclusione, un rapporto con la classicità, sempre con lo stupore come filo conduttore e compagno di visita per il Museo Luigi Bailo, e sarà fino al 30 luglio 2023. Si parlava di un Martini innovatore. In che modo è stato innovatore questo artista? Beh, lo è stato innanzitutto nel trattare i temi in maniera narrativa, in maniera mai tragica. Per esempio, nella Via Crucis sceglie solo 6 episodi della Via Crucis, ma non lo fa mai in maniera drammatica, lo fa sempre in maniera poetica, quindi la poesia, il sentimento è sempre presente nelle sue sculture, e soprattutto innova anche i temi, gli argomenti, l'iconografia. Il famoso figlio prodigo che noi abbiamo messo in una delle prime sale, nell'androne che ci accoglie al museo, è una icona del Novecento, un'icona assoluta, e non è il figlio prodigo che siamo abituati ad immaginare inginocchiato davanti al padre che chiede perdono, ma qui è un giovane provato fisicamente, oltre che nello spirito, che incontra il padre ed è quasi un colloquio tra la giovinezza e la vecchiaia, diciamo, e lo incontra coprendolo per la prima volta anziano, quindi è proprio un dialogo tra due persone che si scoprono entrambe fragili e che si sostengono a vicenda. Quindi anche nelle iconografie lui è sempre innovativo, e innovativo anche nel trattare la materia, quindi si sperimenta in tutti i settori, dal marmo al gesso al bronzo alla terracotta, e sempre in maniera strepitosa. I gessi di Martini che vedremo in mostra, alcuni inediti, o meglio inediti perché mai visti in una esposizione, mai visti, sono sconvolgenti, perché ti domandi in continuazione: ma come ha fatto a realizzarli? Le grandi terracotte è lo stesso, quindi veramente un artista completo a tutto tondo. Lo vedremo in mostra anche come pittore, una cosa piuttosto rara, e come incisore ovviamente, come realizzatore anche di maioliche, tutti i prodotti che svelano una dimensione poliedrica e veramente enorme di questo artista, che merita molto di più, molta più attenzione di quello che ha avuto fino adesso. Io lo giudico anche più importante di Rodin. Se avesse avuto l'occasione, speriamo ce l'abbia in futuro, di una grande mostra a New York, sarebbe sicuramente riconosciuto per il gran artista che è. Come tutti gli innovatori e i grandi di ispirazione e di percorso, in Martini dove troviamo invece legami con la classicità? Uno dei più importanti è sicuramente nel Tobiolo. Sta proprio in una delle sale iniziali, è una scultura che gli ha dato grande successo, ha avuto attestati di approvazione dalla critica, dal pubblico, a Venezia, a Milano, a Parigi nei primi anni, nelle prime esposizioni, ma è un'opera a suo modo, oltre che classica, anche innovativa, perché appunto l'iconografia cambia. E dopo Martini è classico perché guarda a tutte gli influssi anche del passato, non solo agli Etruschi, ma guarda anche ad Arnolfo Di Cambio, ai primitivi in generale, guarda ai contemporanei. Quindi è una persona, un artista tutto tondo, che sa accogliere e far proprie gli stimoli che vengono dalle varie culture e poi rimescolandole e reinventando con uno stile tutto proprio. Io la ringrazio tantissimo ricordando che sarà a Treviso al Museo Luigi Bailo fino al 30 luglio 2023. Arturo Martini, i capolavori. Grazie per la piccola ma grande lezione di storia dell'arte, le auguro una buona giornata e a presto. Grazie a voi e a presto a Treviso. In Don Byron abbiamo trovato il modern jazz, abbiamo trovato il soul, abbiamo trovato il groove, abbiamo trovato queste sonorità che adesso stiamo ascoltando di Boogaloo. Tutto con un grande dialogo di un jazz che si rifà certamente a un pensare in jazz già nella... Non si può parlare di classicità nell'ambito jazzistico, contrariamente invece per quanto riguarda la scultura, però nella formazione, se vogliamo, ecco, tradizionale, che ha saputo proprio grazie a questo aspetto poliedrico trasformare in mille suoni. E allo stesso modo l'artista di cui io sono un grandissimo ammiratore, a me lui, ok, adesso fare delle classifiche, però per quanto riguarda la scultura italiana è l'artista che mi emoziona di più, proprio per la volontà di sperimentare, ma nello stesso tempo di dare una leggibilità molto originale, di alzare quell'asticella nell'ambito artistico che ti incuriosisce e ti dà voglia di saperne di più, sia dal passato che dal presente, grazie a questo sguardo tutti i tempi. I soggetti sacri che lui vede e li fa vedere a noi a modo esattamente atipico, ma certamente legati da quella sacralità, da quella spiritualità al quale lui riesce a dare una forma quanto mai presente, tangibile e originale. E quindi rinnovo l'appuntamento per conoscere questi capolavori che saranno al Museo Luigi Bailo fino al 30 luglio 2023. Io ringrazio tanto il curatore Fabrizio Malachin. Il nostro primo appuntamento in mostra è terminato. Momento di rientrare verso la nostra città, che, come ho detto, da qualche tempo a questa parte ha avuto una svolta in ambito artistico e in ambito espositivo non indifferente. Avremo modo di scoprirlo tra poco, dopo la pubblicità.